sentiamo adesso un'intervista realizzata da Lucia Manassi a Giorgio Cremaschi, il segretario generale della FIOM Piemonte. Quali strategie per creare un movimento globale per i diritti dei lavoratori? Sentiamo la sua risposta. L'effetto positivo della globalizzazione è l'unico, è quello che tutti capiscono le stesse cose con lo stesso significato. Parole come flessibilità, precarizzazione, outsourcing vogliono dire le stesse cose in tutte le parti del mondo. Io credo che il compito che noi abbiamo è quello di agire a due livelli realisticamente oggi. Uno, a livello di grandi aggregazioni continentali, cioè mettere assieme i sindacati europei, i sindacati americani, eccetera. Dall'altro bisogna seguire le fila e i canali del decentramento produttivo, cioè dei legami delle imprese. Questa è una strada, secondo me, fondamentale. Gli industriali la chiamano la catena del valore, quella per cui un prodotto parte da qui, poi viene valorizzato in un'altra parte, poi viene venduto in un'altra parte ancora, per cui se un prodotto viene fatto, un prodotto Fiat, per dirne uno, beh, insomma, tutti i lavoratori che concorrono a fare quel prodotto, ovunque siano nel mondo, devono in qualche modo arrivare ad ambire, avere le stesse condizioni, gli stessi diritti. Ospiti della sessione tematica dedicata a questi temi del lavoro e del mondo globale, anche Rafael Freire, esecutivo nazionale del CUT brasiliano, la Confederazione Unica dei Lavoratori Brasiliani. Come si sta avviando questa organizzazione dei settori non sindacalizzati e i problemi che si trovano ad affrontare in Brasile? Bom, na realidade o movimento, quando eu falo do movimento sindical brasileiro é a CUT. Tu dici è molto difficile organizzare dei settori come quelli dei disoccupati, dei precari, in particolar modo dei giovani. Come prima opportunità di organizzazione dei movimenti che non sono tradizionalmente organizzati come sindacati è il concentrarsi su un'alleanza con un'agenda comune di questi movimenti. Come sta avvenendo questa convergenza tra i movimenti di popolo e il sindacalismo, che ha già una storia? Primero creando un'agenda comune. Prima di tutto ritrovarsi in un'agenda comune, che potrebbe essere definita un'agenda programmatica. In secondo luogo rispettare le differenze che ci sono fra i vari movimenti. In terzo luogo creare degli spazi di convergenza, quali possono essere il Foro Sociale Mondiale, come che si è riunito la prima volta a Porto Alegre, o il Public Forum qui a Genova, che creano forti opportunità di convergenza e di mobilitazione comune. La Francia ha vinto ancora, cari compagni, la Francia ha vinto ancora una volta i rigori, 2-0 per la Francia ai rigori, attack Francia, battuta attack Italia. Hanno fatto una partita di pallone. Esattamente, la partita si è tenuta a Piazza delle Fontane Marose, che non vi lasciate confondere, di Fontane Marose non ce ne sono più, non c'è neanche una fontana piccolina, e si sono messi a giocare in 5 contro 5, una partita di calcetto, mettendo gli zaini per terra per fare le porte, e ovviamente Piazza delle Fontane Marose è un luogo di passaggio automobilistico e quindi hanno bloccato il traffico, e dopo 5 minuti la polizia, che non manca praticamente in nessuna zona della città, tanto più nella zona rossa, perché Piazza delle Fontane Marose è nella zona rossa, è arrivata e ha detto che è ora di smetterla, e hanno negoziato gentilmente con un bravo tenente della polizia, che a quanto pare appassionato di calcio, che ha detto vabbè, finiti là ai rigori, e quindi hanno negoziato una fine ai rigori, 5 rigori per 1, e la Francia ha vinto 2-0. La rivincita, si sono ovviamente promessi la rivincita sarà al prossimo G8, se mai dovesse esserci un prossimo G8. Claudia Sala ci spiega cos'è l'agenda sul diritto alla salute della Lila. Noi consideriamo oggi l'agenda della salute come un qualche cosa che è stato totalmente sottratto da quello che è l'agenda dei politici, dei singoli governi, e che al contrario viene oggi deciso da quelli che sono gli ambiti più propriamente economici e finanziari. Ed è proprio su questa linea che noi intendiamo sviluppare il tema della salute, cioè capire come oggi il diritto delle genti ad avere assistenza e cura dipende molto di più da quelle che sono le decisioni e le scelte assunte da Fondo Monetario piuttosto che Banca Mondiale, nonché dalle decisioni definite all'interno dei trattati internazionali sul commercio. Se il soggetto più rappresentativo qui a Genova è sicuramente il GSF, il Genoa Social Forum, Bisogna ricordarsi che il Network per i diritti globali rappresenta un esperimento interessante, cioè il tentativo di costruire una rete di organizzazioni anticapitalistiche dove convivano i COBAS, una certa parte dei centri sociali italiani, insomma le classiche organizzazioni che si occupano di lavoro dipendente, con anche organizzazioni più nuove che si occupano di forme di lavoro precarie, non stabili, indifese, insomma un tentativo anche questo di tenere insieme determinate realtà per poi proseguire evidentemente con un percorso. In questi giorni il Network per i diritti globali, per bocca dei suoi portavoce, sta rivendicando un peso maggiore. Durante il forum di oggi infatti Piero Bernocchi, il rappresentante dei COBAS Scuola, è intervenuto dicendo una cosa di questo tipo: noi siamo presentati da tutti i giornali come i duri, i cattivi, i pericolosi, eccetera eccetera. Il suo discorso è questo: è vero che siamo duri, ma sui contenuti politici. Di contenuti abbiamo parlato poco, abbiamo parlato molto di zona rossa, non zona rossa, forse era inevitabile, però in altri appuntamenti dovremo correggere il tiro. A livello di contenuti, quali sono le vicinanze e le distanze tra il Network e il Genoa Social Forum? Ma il Genoa Social Forum, per la verità, non si può neanche dire che abbia una vera piattaforma sulle cose più importanti, perché non c'è neanche un documento generale. Diciamo, il Genoa Social Forum non ha parlato di contenuti, forse perché temeva che tutto l'arco delle forze saltasse, si infrangesse, ha preferito quindi sorvolare su un sacco di cose. Però le differenze di contenuti ci sono, perché buona parte delle organizzazioni che stanno già nel Social Forum durante la fase del centro-sinistra si sono mossi nell'arco del centro-sinistra. Noi siamo stati assolutamente ostili al centro-sinistra.